Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È in corso la gara elite maschile dei campionati italiani di ciclismo, arrivo previsto alle 17 a Gorizia. Tutti pieni in questo fine settimana agli alberghi di Trieste. Ieri una partita casarsa ricordando la passione calcistica di Pierpaolo Pasolini. Buongiorno dalla TGR del Friuli Venezia Giulia. Il tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste ci sono 31 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Gorizia 33 gradi, a Udine 31 e mezzo, a Pordenone 29 e mezzo, Tolmezzo 28 gradi, Tarvisio 27 e mezzo, Forni di Sopra 26, a Sappada 23 gradi e mezzo, sul Piancavallo sono stati misurati 21 gradi e mezzo. Sullo Zoncolan 20, sul Monte Lussari 19, a Lignano 31 gradi e mezzo, a Grado 30 gradi, il mare in entrambe le località è di 28 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per questo pomeriggio: cielo sereno con venti di brezza e molto caldo in pianura, zero termico a 5.000 metri. Per domani al mattino cielo sereno poco nuvoloso, in giornata caldo ovunque, specie in pianura, dal pomeriggio sui monti variabilità con la possibilità di qualche rovescio e qualche temporale, più probabili verso il cadore. Il bollettino del traffico: code e rallentamenti in più punti della rete autostradale del Friuli Venezia Giulia per l'esodo e il controesodo, traffico più intenso sulla A23 alla barriera di Ugovizza, dove si sono registrati fino a 5 km di code in direzione Austria e un paio di chilometri in ingresso in autostrada in direzione sud. Rallentamenti si registrano anche lungo l'autostrada A4 all'altezza dell'interconnessione A4-A23 in direzione nord alle uscite di Latisana e Portogruaro. Passiamo subito allo sport con il ciclismo per la corsa partita da Trieste che si concluderà verso le 17 a Gorizia per la prova in linea elite degli uomini dei campionati italiani e l'ultima prova di questi campionati. Partenza data alle 11.05 da Piazza Unità, 228 km e 300 metri da percorrere fino a Gorizia attraversando la pianura friulana e il Coglio. Per un breve tratto il campionato italiano sconfinerà in Slovenia, è la prima volta nella storia della corsa. La partenza ha subito da subito un ritardo a causa di un incidente stradale nei pressi di Barcola. In gara tutti i migliori corridori italiani, il favorito numero uno è Filippo Ganna, ma a contendersi la maglia tricolore ci sono anche gli idoli di casa, i buiesi Alessandro De Marchi e Jonathan Milan, da tenere particolarmente d'occhio. Il caldo si fa sentire, alla partenza si superavano già i 30 gradi. Punto chiave del percorso sarà la salita di San Floriano del Coglio Steverian, con una pendenza media del 5% da affrontare tre volte nel circuito finale. L'arrivo è previsto in Piazza Vittoria a Gorizia intorno alle 17. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Ho pensato che sarebbe bello poter incontrare tutti i gruppi e i singoli pellegrini che si sono già recati a Roma o sono in procinto di partire, per poterci riunire attorno alla mensa eucaristica che ci fa sentire Chiesa che cammina insieme. Così l'arcivescovo Riccardo Lamba motiva l'invito a tutti i pellegrini a celebrare insieme una messa a metà dell'anno santo, l'occasione data dal terzo anniversario di ordinazione episcopale dello stesso Monsignor Lamba nella cattedrale di Udine alle 19. Nella ricorrenza della dedica a San Pietro Apostolo nell'abbazia di Rosazzo sarà celebrata una messa solenne dall'arcivescovo emerito di Udine Andrea Bruno Mazzoccato alle 17. Alberghi pieni a Trieste per questo fine settimana. Con Maurizio Giudici, che è il presidente di Federalberghi Trieste, come sta andando la stagione e come stanno andando questi giorni a livello di percentuale di occupazione delle stanze a Trieste? Questi giorni, ovvero questo weekend appena passato, è stato un innesto di eventi che è associato comunque al periodo di alta stagione, ha fatto registrare sì il tutto esaurito. Quindi questo weekend con il concerto in piazza ha attratto molti turisti e ha dato soddisfazione a vasto raggio a tutto il sistema economico cittadino, dagli alberghi ovviamente, ai ristoranti, ai negozi, quindi ha avuto sicuramente un buon successo. Le prenotazioni vanno ancora, Trieste è l'unica città in Friuli Venezia Giulia che cresce a doppio numero. Quello che leggiamo all'inizio di questa stagione, su cui è assolutamente prematuro dare indicazioni su come andrà, un po' per tutto quello che sono i mercati internazionali, quello che stiamo leggendo e stiamo vedendo sui notiziari nazionali, ma registriamo le prenotazioni molto, molto sotto data. Quindi siamo ritornati rispetto all'anno passato, che invece erano prenotazioni più lunghe, siamo tornati a prenotazioni un po' più last, con una minor pressione di mercato nel centro settimana e sicuramente un quasi tutto esaurito nell'inizio settimana. Questo è il film dell'inizio della stagione. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, sono nomi altisonanti, quelli dei vincitori del premio Hemingway 2025, giunto alla 41esima edizione, istituito in ricordo della visita, compiuta nel 1954, dal Nobel per la letteratura solo pochi mesi prima della consacrazione da parte dell'Accademia di Svezia. Nel solco proprio di Hemingway, alla scrittrice spagnola Alicia Jiménez Bartlett è stato consegnato il riconoscimento letterario per la capacità di esplorazione sociale e psicologica dei suoi libri gialli. La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il premio Testimone del nostro tempo per l'accuratezza con cui ha documentato dinamiche attuali in luoghi complessi come Iran e Ucraina, mentre il britannico Nobel per la chimica 2009 Venki Ramakrishnan è stato insignito con il riconoscimento Avventura del pensiero per l'eticità con cui affronta la complessità delle dinamiche attuali. Infine il premio Lignano per il futuro ha voluto sottolineare la capacità della modenese Felicia Kingsley, al secolo Serena Artioli, di raggiungere con i libri un ampio pubblico parlando di amore e indipendenza, mentre l'onorificenza fotografia è stata attribuita a Pietro Gerolimetto per l'eloquenza della narrazione visiva anche nel contesto del fotolibro. La seconda giornata della 26esima edizione dello Short Trieste International Film Festival inizia alle 16 nella sala Xenia, dove fino alle 20 sarà possibile esplorare con specifici visori personalizzati le 11 storie della sezione Shorts Immersive. Si prosegue alle 19 al Miela con l'assegnazione del premio interprete del presente a Barbara Ronchi. L'attrice sarà protagonista di una masterclass cui seguirà la proiezione di Famiglia di Francesco Constabile. Dalle 21.15 il giardino pubblico accoglierà le proiezioni dei corti del primo blocco della sezione Marmetraggio. Ieri a Casarsa è stato organizzato un omaggio calcistico a Pierpaolo Pasolini. Una singolare partita di calcio si è disputata ieri a Casarsa nel nome di Pierpaolo Pasolini. Fischio d'inizio alle 17 al centro sportivo comunale. In campo si sono sfidate la SAS Casarsa, la squadra in cui giocò il giovane Pasolini e di cui inventò lo stesso nome Società Artistico Sportiva, che l'anno scorso ha compiuto 100 anni dalla fondazione, e la S Velasca, un originale club artistico militante in terza categoria fondato a Milano nel 2015 dall'artista Wolfgang Natlachen. Ogni stagione artisti internazionali ridisegnano divise, accessori e grafiche, trasformando il Velasca in un progetto artistico in continua evoluzione. La partita, promossa in collaborazione con il Centro Studi Pierpaolo Pasolini, il sostegno della Pro Casarsa della Delizia e il patrocinio del Comune, è finita 3-2 per i friulani ed è stata seguita da momenti conviviali aperti alla cittadinanza. La due giorni di eventi collaterali nel nome di Pasolini ha previsto poi per oggi una visita guidata ai luoghi pasoliniani e la proiezione del documentario Rai dedicato a un altro poeta calciatore nato a Casarsa, indimenticato campione di Serie A, Ezio Vendrame, l'illusione del gol di Fulvio Toffoli. Casarsa, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Muggia la festa barocca, piccolo festival del periodo che va dal 500 all'800, con lo spettacolo alla piazza e la chiesa alle 20, la passerella in costumi d'epoca che si muoverà dal compressorio di San Francesco fino a piazza Marconi. A tempo di minuetto i partecipanti si esibiranno in canti, balli e interpretazioni con strumenti storici. Alle 21 in Duomo l'omaggio ai santi Giovanni e Paolo e il concerto magistrale del trio Manuel Staropoli, Fabio Martignago e Luca Ventimiglia. La passeggiata teatrale oltre i confini ungaretti arriva oggi a Sagrado. Il percorso Vita di un uomo sepolto, che tornò alla luce e diventò poeta, si avvierà alle 18.30 da San Martino del Carso e attraverserà il paese. L'iniziativa, pensata dal regista Francesco Accomando, conclude il progetto transfrontaliero tra le comunità di lingua italiana e slovena per la creazione di una memoria e un immaginario storico, culturale e paesaggistico condiviso, per indagare in forma teatrale la vicenda umana e poetica di Ungaretti nel periodo 1914-1919. Si celebra oggi la 16ª giornata mondiale della sclerosi sistemica. All'imbrunire la fontana del Nettuno di Trieste si illuminerà di viola, simbolica vicinanza alle persone affette da questa malattia rara o dai loro familiari. Anche quest'estate Villa Manin ospita arte, eventi, didattica, architetture trasparenti, programma di giochi, laboratori d'arte per giovanissimi dai 6 ai 10 anni, appuntamento a Passariano alle 17. È tutto, la parte tecnica è stata curata da Federico Comar, in redazione Cristina Polselli, in studio Maria Spezia e Walter Scherk. Buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.